Thank you.

Thank you. Thank you. corona, con Pier giurasti le porto mio. Giurai, ebbene, a te dei prigionieri ed io ti vita domando e libertà. Ascolta re, oppure giarinerai, saggia consiglia, ascolta, san nemice prodi sarà, la vendetta dare il cuore, a Teodoro. Questa speranza ai venti. Sobre giorno tu ci hai dato, nulla sfugge al mio sguardo, d'amor distruggi perra da mes, e fama, mi attendi, nei faraon la figlia e tua rivale, razza in pane, apporrita, e a noi fatale. Suo potere ostondi, onda monostra fella. Il poter di lei, no, solo bravi la possente rivolto vincerai. Queste valli i nostri tempi d'or. Rivedrò le foreste malsanate, le queste valli i nostri tempi d'or. Sposa felice a lui che amasti tanto, tribù di maestri potrai gioir. Un giorno solo riesce dolce incanto, le cose, i tempi, e l'ore l'opadona, se in cerchi le vergini rapite, padri, vecchi, fanciulle, il crucito. Sei la schiava. Oh! di queste lande ignue. Una novella patria al nostro amore si schiude. Oh,

Oh, Thank you. E questa Thank you. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。